Dal 1 giugno fino alla fine dell'estate torna la musica nel cortile del Casalone per il Covo Summer 2022. Per parlare della rassegna estiva del Covo Club siamo in collegamento con il direttore artistico e socio del Covo, Andrea James Colgan. Ciao James, benvenuto a Radio Città Fujiko. Ciao a tutti, grazie a voi. Riparte dal 1 giugno la rassegna estiva del Covo dopo 2 anni abbastanza particolari per il settore della musica, soprattutto per il settore della musica dal vivo. Ti chiedo come sarà la rassegna di quest'anno. Allora, sì, la rassegna, come detto, riparte mercoledì 1 giugno qui a Penelope Isle. È un gruppo inglese, insomma, no, abbastanza legati a loro, insomma, li abbiamo già avuti anche al Covo Club. Rispetto all'anno scorso, torniamo alla formula, diciamo, platea aperta, dove si può stare in piedi, diciamo, finalmente. Fino all'anno scorso c'erano ancora gli obblighi delle platee a sedere distanziate. Almeno quest'anno, insomma, riusciamo ad avere qualcosa in più, tornando alla formula, insomma, diciamo, libera di muoversi sotto il palco, che è quello a cui siamo un po' più legati, ecco. La rassegna di quest'anno, oltre a grandi nomi, vede soprattutto anche il ritorno dei nomi internazionali all'interno della programmazione. Ti chiedo un po' di andarci a raccontare quali saranno le protagoniste e i protagonisti che si esibiranno quest'estate. Certo, sì, quest'anno sono tornati un po' i tour gli artisti internazionali. Partiamo subito con uno, appunto, i Penelope Isle, che sono inglesi, e poi ne abbiamo già diversi a giugno. Abbiamo i Tops, un gruppo indie pop canadese, tornano i Black Lips il 14 giugno, insomma, indie rock, garage americani. Poi avremo anche i KVB e poi altri concerti molto attesi. C'è sabato 25 giugno King Khan and the Shrines, e poi, sempre parlando di artisti internazionali, avremo anche Kevin Morby a luglio e Andy Bell con la sua Andy Bell Space Station. Andy Bell, insomma, musicista storico, ha fatto parte dei Ride, Oasis, insomma. Abbiamo dei belli ospiti internazionali quest'estate. Nella vostra programmazione c'è un filo conduttore anche solo a livello di genere? Avete cercato di tenere una line-up che potesse caratterizzare il Covo per un'estate speciale? Qual è stato un po' il criterio di selezione degli artisti? Ma insomma, il nostro criterio principale è un po' il gusto nostro, nel senso, cerchiamo sempre di basarci su quello che ci piace, quello che ascoltiamo, quello che seguiamo, e di conseguenza poi caratterizza anche il Covo questa cura da parte nostra di scegliere chi chiamare a suonare da noi. Poi sì, può sembrare, magari, non so se sia un filo conduttore, sinceramente non ci ho pensato, però sicuramente è una line-up che rappresenta il Covo, perché c'è un bel mix tra artisti internazionali e nazionali, che è un po' sempre stata anche la caratteristica del Covo, proprio questa. James, io ti ringrazio e auguro una buona fortuna al Covo per la ripartenza di questa nuova stagione estiva, e speriamo di risentirci presto. Ancora grazie. Ok, volentieri, grazie a te. Ciao. Ciao.